sei natalizio. Perché si vede? Ah, il VIP è rimesso, certe volte non ce l'avevi il VIP. Qui Natalia era andato sul 20 a fare un saluto. E ho salutato solo perché stavo per mangiare, infatti mi è arrivato adesso. Se l'ho riparlato in radio, ho capito. Eravamo a fare la spesa, cioè prima siamo andati al commercialista, lungo di canna e corto di vista, poi da Lidl, a prendere due cosette, l'acqua soprattutto. Adesso sto per mangiarmi, non lo so se ci sei dopo, dai. E io già sono in ascolto, là. Non c'è problema. E oggi niente, no? Non è entrato tipo Gianni, Claudio, no? Non so nemmeno se è al lavoro, se è in ferie Claudio, ma credo che stia lavorando. E infatti, Marco, io ho acceso poco fa perché non stavo facendo cosa qua, ancora questo computer mi sta dando problemi. Il computer ci sta dando problemi. Ehi, ho finito di metterlo a posto adesso. Ehi, va, ne so qualcosa io. Quando cominciano così, per carità, ma molto vecchio, da quando ce l'hai? No, oh, questo è nuovo, Però c'avevo problemi in internet, non riuscivo a entrare in internet, sì. Perché mi si era messa automaticamente una funzione che io non volevo e l'ho scoperto, adesso è una bomba. Ehi, infatti, quando finisci in quelle schede con le opzioni, mamma mia, anche per sbaglio mi... Però c'è qualcosa che non va, aspetta. Cos'è? Sto mangiando. Ah, l'acqua da bere, se no non mi si va la me. Ho fatto una battutina in PMF anche me. Con lo scrambler. Ho fatto sentire lo scrambler a Gior Maria, tanto per la cronaca, mi stavano parlando di scrambler. Ma ce l'hai tu lo scrambler? Sì, è in versione di banda. Perché io in quello piccolino con quattro frequenze ce l'ho, però bisognerebbe vedere la situazione. Magari ci vieni tu qualche giorno, perché io non so niente più qua. Eia, pensa che il ricevitore da tavolo... Aspetta che mi sta chiamando mamma. Attenzione, binario 10, cambio. Eia, buonasera già. Buonasera Natalino e anche a Marco. E Marco l'ha chiamato la mamma un attimo. Che raga, lo sai, lui esce di notte, se non te quignare escono di notte. E tu cosa sei convenendo in attacco? Sono qua col computer, ma va, cosa Marazzucchi va? E io sono un po' fatto trovare un lavoro e direttamente al CAF. Cosa è successo già? Al CAF sei andato? Per informarmi di quella cosa, ma visto che qui da non sappiamo nulla, abbiamo beccato un'impiegata di capo. Abbiamo beccato? Un'impiegata di capo lì a... di quell'ufficio che siamo andati per chiedere, ti ricordi? E me? No, comprendi a nuda, chissà, questa dama ha fatto la domanda, tutto qua, bisogna entrare nel sito, perché dice che loro non hanno finito, continuano ad andare avanti con questa studia, capito? E adesso niente, devo andare da un fisiatra. Ma io me l'ho sospettato, va. Sì, quella lì quando l'abbiamo chiesto, ti ricordi? Sei entrata anche tu, mi sembra. Quando ho chiesto che agevolazione avevo, ma ha detto al collega, ascolta, tu lo sai che agevolazione, quando mai una chiede al collega, una si invia per informare l'utente, non è cazzo che non sa le cose. Ma quella era l'acqua di rose, magari era per sostituire lì, però non ne capiva nulla. A me mi pare di strana la situazione. E infatti non ci ho visto chiaro e sono andato a sindacato. E mi ha dato tutte le dritte, capito? Infatti già, cazzo, noi non ci siamo più sentiti e mi dovevi dire una cosa al telefono che ti avevo chiesto e non mi ha telefonato, boh. Ma cosa riguarda una non certa lui? Non certa lui, capito? Era incattato con delle persone. Comunque se vuoi te lo dico, non c'è problema. Te lo dico al telefono, però non al computer che devo sapere di tutti, che poi vedono anche gli altri, capito? No, al telefono, cazzo, no, li cazzi nostri se li trattiamo noi. Ti difendo io già, dillo a me. Dillo mio, a Condo, Marcolino a Condo. Ex Condo, Ratta Pignara, prego. Beh già. Ma sai che sto guardando la cosa? Oggi non mi ci vala questo pollo, non mi ci vala. Anche bevendo acqua. Allora sai cosa ho fatto oggi a mangiare a pranzo? Dice. Allora, mia moglie c'aveva un po' di carne macinata. Allora ho preso, ho fatto le polpette al sugo. E il sugo me l'ho usato per fare la pasta asciutta. Una bomba. Ah, invece ho usato il sugo nella pasta. Oh, buono era. Che sugo era? Cioè sugo di che pietanza? Che sugo della... Aspetta un attimo! C'è nessuno sul canale 10? Aspetta Marco, ci sei in ascolto? Se vuoi proprio Marco, mi sa che si è allontanato, ci sono io e c'è anche Natalino. Ok, va bene, lo stesso. Si dice Marco, ciao già. Si dice Marco per fare chiamata, se c'è qualcuno poi lo faccia, no? Buonasera Giulio, stavo scherzando. No, c'era con Natalino, ma andavamo al telefono e sicuramente è entrato anche lui adesso. Natalino ci sì. Natalino non sembra che lo c'è. No, perché Marco è il più assiduo, diciamo, dai. Non ci sono altre persone a chiedere come Marco, il più che sta frequentando nonostante la crisi del CB. Perché sempre chiuso in casa lui, io esco. Certo, ciao Marco, avanti. Eia, no, avevo cambiato canale, ero il PMR un attimo a salutare Pomponio. Chi c'è? Chi è rientrato? Dai, stavo finendo di mangiare. Ma non ho voglia, non mi scende la roba oggi, non so perché. Prendi un bastone e spingi, vedrai che ti aiuta molto. Marco, la tua cacciata, prendi la tua cacciata, vedrai che ti fa fare il routino. Chiama lo routino, se volete ve lo faccio anche in diretta, amico. No, per carità, tu fai il routine, non il routino, no, lascia perdere. Ma dimmi tu dove si fa il bagno. No, che poi qua c'è Giulio e lui mi arroccia, queste cose non le ammette. Vuoi dire? No, ma ci pensare il mio forte, l'educazione è il mio forte. Sto scherzando, Marco. Lo so però. Se c'è Pomponio, vabbè, passi, lui mi è sboccato già lui, quindi... Mamma mia, sto pollo olivo è proprio... Ma... Hai ragione, devo pigliare quei cosi che usano per i cannoni, mi, per fare scendere la palla. Quelli specie di stantuffi, mi. Io l'altro giorno l'ho fatto con i pepinoni, già che è buono. Specialmente quando è riposato la sera, mi lo lascio riposare apposta. E poi ne sa fuori dei pepinoni, tanto è buono. Fatti una tartatina, te lo dico questa sera, fatti una tartata di olio. Così si vola molto bene, non sono ostacoli. Giulio, ti volevo chiedere una cosa, perché parlando di termini così, con salsa, con mamma sempre ce lo siamo ancora dimenticato, come si chiama il bordo della scarpa dove c'è il tallone? Quella che quelli negri lo abbassano per non fare la fatica di calzarlo. Lufurroni, in italiano lufurroni. Si chiama il fonte. In italiano sarà così, però in italiano lufurroni. Adesso me lo scrivo, perché sennò non... E voi ve lo ricordavate, ve l'avevo detto, cos'è i Suzuhiku, però è sardo questo, Suzuhiku, ve l'avevo detto, ve lo ricordate? Suzuhiku, no, no, io no, non lo so, non lo so cos'è. Visto, Natalino cioè, lo sa, le ascelle, l'ascella, Suzuhiku, e questo ce lo diceva zio Salvatore a mia madre, capito? Tempi antichi, dai, però quello è sardo. Ok, a dopo, dai, fatemi finire. E questa sera di Suzuhiku, la stessa cosa. Oh, è singolare com'è? Suzuhiku. Però il sassarese è uguale al sardo. Oh, no, credevo fosse diverso. Se te l'ho anche pronunciato, sassarese sono gli suichi, le ascelle. Oh. Ah, sì, hai ragione, Natalia. Adesso mi devo permettere, il sassarese sì, si è visto così, gli suichi. Sì, sì, sì, sì. È un barraccolo, lo sai cos'è, Marco, un barraccolo. Marco! E aspetta, si è spostato, deve essere. A mangiare è andato. Ciao, dai, avanti, ti prendi. Ciao. Che cosa sulla noe voi? Sulla noe? Sì, sulla noe vera. Io ho una piatta di aloe vera. E voglio sapere se la noe, come dicono, è veramente medicamentosa su certe cose. No, dunque, noi come aloe cosa abbiamo? Ah, una specie di pomata. Che serve per rinfrescare, ad esempio tu hai che tu io una parte arrossata eccetera, no? Che dà un fastidio magari critica oppure da turito, devi mettere un po' di quello, comunque dai in un istante si passa il turito, si passa anche l'eventuale bruciore eccetera già. Sì, ma per me per i tali, piaghe, queste cose qua, vabbè, nulla sapete. Mi sa che mi informo su internet a vedere, perché io ho una pianta di aloe e mi hanno detto che l'aloe è una pianta medicamentosa e che fa bene a tantissime cose. E anche a me, però bisogna sapere quali già. Domani te lo posso dire con certezza, Gianni. Oggi no, oggi non c'è mio genero. Domani lui siccome è laureato in erbolisteria e poi è laureato anche in farmacia. Farmacista, no? Per cui lo posso chiedere a lui e poi ti posso dare una risposta precisa. E gli anche dire se non è domani un altro giorno, ma tanto per saperlo, perché questo amico mi stava dicendo guarda che la noe ti fa bene anche i tagli, alle piaghe, tutte queste cose qua, te le fa guarire. Cioè tagliare una foglia di aloe non costa nulla, non è passarsela, come ha detto lui. Basta che tu premi, tagli una foglia, premi, esce una specie di acqua dall'interno della foglia, che quella lì è una cosa medicamentosa. E il gel devi usare, un gel esce, dice, dalla foglia. E praticamente quel liquido lì dice che ti va a guarire, ditemi, però non ne sono sicuro già. Anche io ho sentito di. Non è che. Ma già mi posso informare anche su internet per vedere un po'. Tanto lì si trova tutto. Ma dillo, chiedilo giù, che da una persona laureata è sempre meglio che saperlo da gente che magari sono ciceroni che lo scrivo. Appunto, è stato più che lui sta lavorando, il farmacista, lui il suo mestiere è fare il farmacista. Lui lavora in farmacia, per cui queste cose le sa. Poi addirittura tanti prodotti le fa lui, tante medicine eccetera, le combina lui, perché ci sono certe farmacie che le combinano loro, naturalmente hanno le percentuali, i pesi, tutte queste cose, però le prepara lui, perciò sono posso dire con la massima certezza, domani però, perché oggi non viene, domani sera viene, tardi, è verso meno per mezza, dunque. Mi interessa se fa bene sulle piaghe, sui tagli, su queste cose qua, quello voglio sapere. Perché se la sacrifico con la piatta nel mio culo, perché voglio sapere proprio se fa bene queste piaghe, queste cose qua. Che è quasi chiusa la mia, ma cazzo non chiude mai, sembra chiusa poi si riapre, cazzo, una cosa allucinante. Ma io ti posso dire che mi ero curato i gomiti, io mi ricordo, avevo avevo messo una maglietta, avevo messo, forse la tinta di questa maglietta, non lo so, a maniche lunghe, e mi aveva fatto uscire nei gomiti, proprio nei gomiti, nella parte della pelle morta, per così dire, del gomito, ed è una specie di foruncolini, ma non erano in realtà foruncolini, era uno sfogo, era. Beh, l'ho fatto vedere a lui, ma ha detto a me, metti questo, ed era proprio questa pomata che ti stavo dicendo, e in due giorni non avevo più niente, ma un prurito mi faceva impazzire, poi io mi veniva spontaneo, grattavo anche da sopra la maglietta, ma grattavo i gomiti, no? E dunque a un certo momento erano quasi in sangue questi gomiti. Beh, devo dirti che in due giorni non avevo più niente. Io guarda, lo dire a me, perché l'altro giorno ero lì a Waterpark, adesso non lo so se come mi sono tuffato in piscina e c'era qualche duro che aveva qualche cosa, non lo so. Comunque sono uscito fuori e nel collo del piede avevo questo prurito, ma tremendo, un prurito da grattarti sino a portarti in sangue. Beh, di domani ero tutto scoriato dove mi ero grattato. Il pulito che avevo nei gomiti, allora grattavo, cazzo, boh, ho parlato con lui, ma non mi metti questa pare qua, ma ha pagato questa pomata, ma secondo che è un tubetto praticamente, tipo di edificio, proprio grosso come tubetto, più grande, molto più grande, e ci ho messo quello, ci ho messo, così, dice, non lo asciugare, lo metti, si asciuga subito, in 5 minuti si asciugano, lascialo stare così, non c'è niente da fare, no? Tu con le mani stesse me lo passeggiavo sopra e non in 5 minuti mi si asciugava e poi non sentivo più niente, nemmeno lui non sentivo più. Beh, mi è passato in 2 giorni e non avevo più quello sfogo. E magari ti ha irritato la tintura del coso, lo sai. Tante volte la pelle di ricca, io poi c'è una pelle che è delicatissima, qualsiasi cosa mi irrita, bocca. Se tu vedi un pizzico mi viene subito il limite, non è che un pizzichino finto di così, appena mi viene subito il limite. C'è una delicatissima la pelle, non sembrerebbe, però è così. Avanti, mamma. Così è mamma. Anche se gli dai un colpettino, un pizzico a scherzo, le viene il livido. Molto sensibile. Sì, della Loie, stavo leggendo qualcosa adesso, molte proprietà curative, naturalmente qualche controindicazione, tipo se prendi cortisone, se prendi tipi di farmaci, ma niente di grave, casomai può diminuire l'effetto dei farmaci, magari aumentarlo. Controindicato se uno ha, ho letto, tipo emorroidi, morbo di Crohn, malattie dell'apparato gastrointestinale, per chi lo usa come lassativo, sai, piccole cose. Comunque leggi, già, ci sono un sacco di siti che ne parlano della Loie, va bene un po' a tutto. Un po' a tutto. Ok. Sì, ma ho usato grezzo, io sto dicendo, non la pomata, così, io sto dicendo che c'è, delle persone mi hanno detto che si taglia la foglia, si preme e si mette questa cosa che c'ha dentro. E ti dice, prova a passatelo la mano nella terra, vedrai che te la fa passare, mi ha detto questo qui. E tanto male non ti fa, provalo e vedrai. Sì, si può provare, sì, qua parla di succo di aloe, proprio succo puro di aloe, senza menate, creme, poi ricordati, vabbè, chi lo vende a scopo industriale dice sempre che fa bene, diciamo. Sì, va bene, un farmacista, un erborista, poi se non ti fidi di internet puoi chiedere, va bene, erboristeria lo vendono, quindi magari sono prevenuti. Comunque è una bella pianta l'aloe, ha molte qualità, ecco. Ma poi ho letto tipo di non prenderlo se assumi liquidizia, no, se prendi liquidizia, piccole cosettine, sai, può fare reazioni strane. Poi ci sono state rare cose di dermatiti, ma rare, tipo che sei allergico. Ma quelle lì ci stanno anche. Se uno magari è allergico è normale. Tata lì, prendi più dai. Tata lì, ma non riprende, si vede che è impegnato. Sì, ma è così, io già, domani, ripeto, chiedo a mio genero e così lui me lo sa dire con la massima certezza. Anche perché aveva anche un'attività una volta di erboristeria, poi invece ha cambiato e sta facendo direttamente il farmacista, che è più, più importante, logicamente. Per cui va bene così, lui ne sa, perché è il suo lavoro, è farmacista, è praticante, per cui vede bene. Ma ripeto, era anche la prima laurea, no, la seconda laurea, perché ne ha tre lauree. Uno è in lettere, uno è in erboristeria e uno in farmacia, per cui ha tre lauree. Però diciamo che l'ultima che ha preso è la farmacia, perché prima era erborista. Però non era soddisfatto, dice, studio e prendo la laurea in farmacia, e questo sta facendo, e sta lavorando in farmacia. C'è da capo di marzo. C'è da capo, è tre laurea. E va bene, è stato sempre molto curioso, per cui va bene così. E va bene, a chi troppo che niente di queste lauree, già, che cosa ci vuoi fare? Vuol dire che lui l'ha portato per lo studio, pensate, è vero, per il suo studio, cioè quello che ha studiato lo sta sfruttando adesso con le piede. Ma non è lo stesso, mia figlia è lo stesso, l'esame che ha dato 30, adesso sta facendo la specialistica, prima di venire oggi è arrivata la Bologna, prima di venire ha dato due esami, tutti e due ha preso 30. Ok, meglio così, già lo credo. Sì, mia figlia ha dato 30 figli esami in agraria, per cui c'è una tesi, la tesi di cosa l'hanno fatta sull'ultimo, mi sembra, sì, la tesi di laurea l'hanno fatta sull'ultimo. Alla fine io non ero presente, ero laureata, sai, c'era tutta una platea, eccetera, sai, c'è tanta gente, tanto laureandi, e c'era una fila di banco di almeno una decina di professori, c'erano tutti quanti una cantonata, tra questi anche il presidente dell'università, come si chiama, il rettore, non lo so come si chiama, comunque quello che comanda l'università, che lui faceva le interrogazioni, no? Le facciamo le interrogazioni. A un certo momento, alla fine, gli ha detto, complimenti, perché oggi io non sono in grado di fargli una domanda in merito a quello che della tesi che ha dato. Se c'è qualche collega che ha qualche domanda da fare, faccia pure, così magari mi risponde. No? Nessuno di loro ha saputo rispondere a questa domanda. Dopo aver fatto tutta una serie di domande, tutto era apparendo, tanto è vero, lo ha preso sempre di cellone, soddisfio, per cui vedi bene. È vero. E anche Manuela ha preso cielo di cellone, quando si è laureata c'era anche io, e le hanno detto che cosa dire di Manuela. Non ha preso manco respiro, non ci ha fatto parlare, ha detto tutto lì. E poi che cosa dire? Ha preso sempre 30 gli esami, più che da 12 un centellone non si può. Purtroppo, oltre quello, oltre 110 euro, guardate, non credo che sia altro, per cui va bene così. Avanti Luca. Oltre 110 euro c'è il bacio accademico. Buonasera a tutti. Ciao Chris. Ciao Gianni. Hai ricevuto ciò che ti ho mandato? Sì, l'ho trovato l'hai. Cosa? L'ho trovato l'hai quel tipo. Quale tipo? L'ho levato tu il tipo, aspetta. Ah, quello che stanno cercando. No, ma non è quello. Il coso dove fare le iniezioni, le pappi dove fare le iniezioni. Ah, sì, sì. Però aspetta, le cose quali? Quella di pranzo, pranzo sì, con l'altra pranzo e cena, davanti alla coscia. No, la coscia a cena. E la coscia dietro, l'ultima, non so se devi fare la notturna quella lenta, quella rilenta. Vabbè, dai, comunque gli sto facendo lì la coscia, però non davanti alla coscia, al fianco. Ciao Natalia. Ciao Luca. È vero. Ma mi sembra che sei davvero vero. Ok, Luca, dimmi una cosa. Nel mio computer di base non c'è più Windows, o come si chiama, ma è possibile rimetterlo? Perché adesso io ho programmato Ubuntu. Dimmi che computer è quanto tempo ha? Prima avevi Windows 7? Mi sembra di sì, non so se era 7 o 8, comunque era quello. E non lo possibile, sa, si può mettere Windows 7. E perché no? Se c'è 2 anni e forse era 8. E non c'è Windows. Strano che sia sparito così. E fa conflitto, se non lo metti bene non parte neanche il dualboot, ci rovina Windows. Ubuntu, capito? Abbia fatto 2 partizioni, una con Ubuntu e l'altra con Windows. Forse altro che non c'è, non è che sia bussi tolto, scusa. Tu controlla. Cosa che controlla non è un problema. Allora, domani cos'è? Domani giovedì? Non so, domani in bottega sei Giulio. No, sto facendo il lavoro qui a casa, domani sto a casa, non esco per niente. Domani non esco. Iniziato, a che ora devo mangiare? Alle 9, il pranzo alle 9. Giulia, oggi ho letto una cosa sulla nuova attinente alla tua professione, no? Sulla Nuova Sardegna, stavano parlando di un posto X che adesso non mi ricordo, no? Stavano parlando di che stanno sparendo, l'articolo parlava di questo, che stavano sparendo i maestri d'ascia, no? Detto così, proprio scritto in italiano. E mentre una volta in questo posto facevano 100 barche all'anno, no? Per decenni hanno fatto almeno un centinaio di barche all'anno, adesso di barche all'anno mi pare stanno facendo una e boh. E sta sparendo proprio anche questa professione qua, proprio i lavoretti di artigianato stanno andando via. Anche il calzolaio che avevamo qui in via Nizza è sparito, era di una comodità estrema perché mamma ci andava spesso e volentieri. Anche quello ha chiuso bottega perché era grande, ha detto, beh signori, e purtroppo adesso se vuole rifare un tacco deve andare a Sozza di Vecchia, pensa. Sì, io lo so, ma come è così, in effetti è così. Ma non solamente il falegname stanno sparendo la Sozza, ce ne sono pochissimi. Addirittura sono spariti anche le vendite del legname, ce n'è solo uno, le vendite del legname. A parte del cantiere, tipo Vicco che vende legname per cantiere, ma quello non è il legno di falegnameria, per cui non è un legno per fare lavori di falegnameria. Ma per dire, hanno voluto così, guarda, io ce l'ho a morte con il comune, con la provincia e soprattutto con il governo, per questo motivo, perché stanno morendo tutti i mestieri, soprattutto il falegname, ormai non c'è più nessuno. Io quando vado a bottega, vado tanto per passare un'ora così, tu non hai idea di quante persone vengono che mi chiedono di farli da voi, ma io non ne faccio nessuno, ormai io sono fuori e non ne voglio più fare a nessuno, nemmeno agli amici, nessuno, anche perché non lo posso più fare, sinceramente parlando, ormai mi sono cancellato dalla Camera di Commercio, per cui non sarebbe nemmeno corretto, poi io sono fatto così, io o sono in regola, o non sono in regola e non faccio niente, capito? E stanno morendo i mestieri, tra qualche anno, quando in un laboratorio, ma di qualsiasi mestiere, non solamente falegname, a casa per una riparazione, una cosa, voglio vedere chi chiamiamo, perché stanno morendo tutti i mestieri. E poi forse si disoffendizzano tutti giù, ma c'è la forma di andare avanti con queste tasse, con queste cose, già lo sai tu. Sì, appunto, è il discorso delle tasse, e soprattutto poi ci sono aggiunte anche le grandi distribuzioni. Tu non vedi altro, io c'ero oggi da qui come c'ero, per altri motivi, e tu non vedi altro che gente prendendosi ripiani, pannelli, listoni, tutte queste cose qua. Adesso fanno tutti la sera contro loro, perché? Perché vanno lì e trovano tutto, quasi su misura, e poi la gente pasticcia. Magari è un pasticcio, d'accordo, quello che vuoi, ma intanto pasticcio un nuovo, la volta che da Moretto se l'hai fatto da te, non hai bisogno di chiamare nemmeno falegname. Dico falegname per dire muratore, per dire elettricista, o il fabbro, o qualsiasi altro mestiere, capito? Io già lo so già che ci sono stato in mezzo, ti fanno chiudere il buono, per andare avanti, sarà stata la roba di Kelly, io si dico che i prezzi devono essere, uno che fa il travaglio duro deve farlo come ti si deve, però può pagare il travaglio, a grazie se non travaglia più nessuno penso. Per andare a piacere un mobile battuto di Mondezza, di drucciolare, però non è legno quello. Appunto, comprano cose così, tipo Corporama, oppure quest'altro nuovo negozio che hanno fatto che ha preso niente. Come fai tu? Una casa da letto pagata 500 euro, una gamba da letto. Ma se c'è un pezzo, ma se solo per un paramaggio di casa mia, solo per un paramaggio di casa, ho speso 200 euro solo in ferramenta, che consiste in tovellini per gli sportelli, cerniere, cerniere di rotore, vado a fare 200 euro solo di ferramenta di quel genere. Tu immagini un po' tutto l'armadio quanto costa a fare tutto l'armadio, tanto è vero l'armadio come quello che ho io, l'accanto a tutta altezza, la terra sul mio solaio, quasi, ci mancano 4-5 centimetri per arrivare al solaio, perché se non si può nemmeno montare dentro casa, e hanno 3 cieli, 12 fotelli e 3 cassetti, 5 cassetti. Non sto guardando adesso, ma come la mettiamo più? Sentite, oh, se vuoi 10.000 euro solo per l'armadio, sentite, come ci vai tu a prendere la gamba adesso se hai 100 euro? Cosa ti dà se ti muoce 100 euro? E abbiamo un più da bimbo. Trucciolare di dazzini, legna lotti di dazzini no, trucciolare ti danno. Ma non è lei, ma non hai visto la volta che è venuta che non gliele volevi manco fare a mia nipote, cazzo, quello sportello si era staccata la cena, anche la drucciolare. Ma noi, come se pare che anche come fare la modesta, poi va mica a ripararlo, quando una riparazione di questa vita dello sportello, ma vai la partita, quello che vuoi. Tu pensa che sono tutti sportelli, ci sono tutti i sportelli in questo armadio mio, bianco, laccato bianco, perché io ho la camera da letto di colore, comodini, e letto di colore ciliegio è noce, una mano di noce e una mano di ciliegio, per non essere troppo rosso. Dunque la camera mia è di colore, no? Mentre l'armadio capiente largo 3 metri, alto 2 metri e 65 centimetri di altezza, dove si sfruttano 5 cassetti grandi come quelli del Comò, tanto per darvi un'idea, no? E sono disponibili, sono costruiti tutte in mogano fitto, nonostante che è laccato in bianco. Perché l'ho fatto in mogano fitto? Perché l'ho fatto in mogano fitto per il semplice motivo che il legno lo facesse difetti, perché se fa difetti la cattura si spacca, soprattutto nelle giunture e nelle cose. Tanto è vero, io questo, da quando sono qua, in questa casa, se ho quasi 15 anni, io ti faccio venire qua, non c'è un minimo di difetto, niente. Sono rispondendo, l'ho fatto in mogano fitto, e tutto il resto è tutto mattello, per dirti no, vai tu e piglia i nostri fortelli, sono un fanno di là, ti devo pure un buco, ma i fortelli non stanno che di preso, no, ma di 7-800 euro, noi non veniamo a fare i fortelli, ma le condizioni di fortelli, poi la padellatura naturalmente, fate nel MDF, cioè servizio di perché è laccato, perché è quello il materiale per laccare, perché se lo fai quello, ma se lo si spacca, e allora la laccatura si fa di petto. Mi sono segnato la salita. E ognuno sa che sua, dicevano, capito? Oi, perché 600 euro è solo un cassetto di quell'armadio che hai tu. Non sei su sportello che costa meno di più. Ma io faccio 600 euro, se posso, al massimo ti posso fare un comunino, come quello che ho io. Tre cassetti, tre cassettini, il comunino già lo sai quanto è grande, non è che sia un grande, come misura, non è che sia così grande, è un comunino, tre cassetti, tre cassettini. 600 euro ti posso un comunino, 600, 650 euro, però se ci ha messo la centria, ma pure vedremo. Se il costo vuole per la cucina, se vuole una cucina fatta come si deve, con tutti gli elettrodomestici eccetera, fatta vero, una volta per sempre, ci vogliono 15.000 euro, ma che costa? Sai, di tutto va dal maletto, per cui se tu vuoi una cosa fatta come si deve, devi pagarla, e invece vai la comprava e te la danno 2.000 euro, 3.000 euro massimo, quando è la missione che hanno. Tu già ti spieghi, e poi io lo so perché vedevo le cose, lo so che ci vuole, che ci vogliono quei soldi. Cazzo, se tu non mi riba 600 euro la cosa, il vetro solare non può essere. E quando finiscono ci ributtano in camera, così ho sentito dire dal giovane, io ho detto, ma io non la penso così. Sì, ma hai sempre un numero che non vale 4 soldi o Gianni. Il discorso funziona, quello che stai dicendo, ma pensa che funziona, perché ti avranno 20 euro al mese e dunque la gente non se ne accorge nemmeno come se lo fare. Però è sempre è a casa, ti dico, sempre un mucchio di mondezza e basta. Sì, il mobile è come a casa. Se li tieni bene, se sono mobili buoni acquistano parole, se sono mobili non si viene a nulla, si può pure lavorare. Appunto, tu prendi le persone anziane, e vai a toccare gli mobili antichi di quando sono sposati, quindi soprattutto che sono state costruite dagli artigiani, vai a toccare via di lì, ma non sarai mai più di disegnerò che io butto via quei mobili lì. Perché? Perché sanno con quello che hanno pagato e soprattutto quindi la resa che gli hanno fatto, ecco qua il discorso. Ma ne aveva uno di quei mobili lì. Enorme, grande, grandissimo era. E l'aveva fatto un artigiano, questo mobile. Beh, questo mobile non ha mai ceduto, mai gonfiato, niente, ma era fatto in noce però. Era un mobile veramente grosso e spesso, certo, si vedeva le nodi da una parte all'altra, se c'era il nodo si vedeva, se era una parte che dall'altra. Certo, io lo credo, tu fai adesso, parliamo noi della Sardegna, ad esempio, nei paesi soprattutto ancora oggi ci sono quelle persone di una certa età che sono affezionatissime alle casse panche, ai mobili fatti in stile stato, eccetera, chi devi cambiare per le cose di disegno? Ma così è diventato cosa mi devi disegno? Ecco cosa ti rispondo, sono una casa panca, per fare una casa panca quindi così, intagliate come quelle in castagno, eccetera, o in opere, ci vogliono 2.500 euro, ma te ne rendi conto, è una casa panca appena, se ora ti chiuda la camera. Guarda, io lo so perché c'è il cugino di mia moglie che è di Nuoro e gli piacciono queste cose qua, c'è la casa panca, se l'ha fatta fare dal falegname, ci ha fatto fare un tavolo con le sedie dove c'ha praticamente il camino lì, ha messo un tavolo lungo in noce grosso, ma spesso però tutto fatto, poi ci ha fatto fare tutto la cornice del cammino che gira e cose, tutto in legno, in legno massiccio proprio, tutto così se l'ha fatto fare, in più c'ha tutte le posate di quelle antiche appese al muro in legno, il legno tutto fatto da falegname. Beh certo, già lo credo, caspita, quello che si scusa vuole, adesso io a casa ho due scale in legno, una al giorno che passa dalla sala alla zona rotta e l'altra per sale, a chiocciola un pezzo al giorno, un pezzo a chiocciola che sale dalla zona rotta alla massata. Ma se vuole, ad esempio, per la sala lavoravo io sempre, 12.000 euro per fare una scala come quello che ho io, però è una scala che dopo 15 anni che io la sto usando, che si faccio con le scarpe, avevo i mulatori 4 mesi fa, 3 mesi fa, per a casa con gli scarponi tutti pieni di cemento, tu vieni a vedere se c'è un graffio, dove non c'è. La verniciatura, quella che ti ho fatto 15 anni fa è nuova quella. Prenditelo, però cosa è? È in occo il legno, è piuttosto che la presa Gianni. Così, pensa che ogni gradino, a solo di grezzo, di legno grezzo, costava 80 euro l'uno, che sono 20 gradini mi sembra, ma se lo conto, solo di legno, grezzo, poi tutta la lavorazione, poi tutti i longheroni, tutta la balaustra su, la ghiera, eccetera, eccetera. Prenditelo Gianni. Lo so, perché ho anche amici che hanno queste passioni. Ad esempio, un amico che ha recuperato quelle travi che usano in ferrovia, quelle cose, ci ha fatto tutto sotto il tetto con queste travi, casa non è bellissimo, vedere quella casa è rustica, no? In campagna, ma è bellissima. Mi devo lasciare perché sta arrivando mia figlia, mi devo imbellettare, la devo festeggiare, dai, che essere un po' che non la vedevo. Ok, già, d'accordo, dai, allora ci salutiamo e ci sentiamo eventualmente domani se coincide. Ciao Gianni, saluti in casa anche la parte mia, dai, alle prossime, grazie per la chiacchieratina. Vai Marco, ci sei? Sì, ciao Gianni, dai. Ci sentiamo quando capita, dai. Purtroppo ho letto che ne so, tra dopodomani in poi dovrebbe salire gradualmente la temperatura di nuovo. Mamma mia, speriamo non salga troppo, perché caspita, gli altri anni venivano solo anticicloni delle Azzorre, che sì, caldo, bel tempo, ma era mitigato, ma adesso stanno arrivando anticicloni dall'Africa sempre, e non solo. Come sono arrivati gli africani, è arrivato il clima africano anche, ma il colmo è. Vai Giulio. Ok, speriamo che non salga troppo la temperatura, perché in quei giorni passati stava veramente male, soprattutto per l'umidità che c'era. Vabbè, grazie. Avanti Natalini, salutare Gianni che sta chiudendo. Ciao Gianni, se sei in ascolto, saluta mamma Manuela, è in casa, ciao, alle prossime. Ciao ragazzi, chiudo pure io, dai, vado a mangiare, buona serata, alla prossima. Giulio, quando sei in zona con uno sguido, ciao. Ciao Luca. Ok. Ciao Luca, stai chiudendo anche tu, ci sentiamo domani, eventualmente se coincide ancora, dai. La sera verso le 7 gli altri già. Io accendo sempre anche da presto, però Oia non c'è più nessuno, non ha più voglia nessuno di parlare da baracchino, pazienza dai, avanti Marco. Beh io quando ci sono chiamo, magari non chiamo a voce, fischio, faccio il bip multiplo, certe volte c'è Natalino, allora magari entriamo in due, poi entra qualcun altro. Ieri è entrato Valerio anche da Alghero, purtroppo abbiamo fatto ping pong e un po', vabbè, purtroppo mi ha lasciato in bianco, anche un'altra persona era entrata, perché non ricordo il nome. Va bene, sì, insomma non sono riuscito comunque a trovare questo articolo, non è sulla Nova, forse se non è sulla Nova è da un'altra parte, forse su ANSA, l'ho letto, su un altro di ANSA. E tutto, alla fine, cioè, di questi tempi chi è che va più a fare il cazzolaio? A nessuno credo. Una volta esisteva addirittura il cazzolaio della Standa o dell'Upim, mi ricordo, che faceva anche le chiavi, mi pare, c'era uno stand fatto apposta e metteva a posto suole, cose del genere, e poi facevano anche le chiavi, ma ti sto parlando degli anni 70, fine anni 70, non so se te lo ricordi Giulio. Certo, già lo credo, ma era così, prima non fanno, si faceva le chiavi a mano. Faceva addirittura, oggi invece c'è la macchina copiatrice, tu vai con una chiave normale e te la fa subito in un istante, così che no, prima il papo te la faceva a mano proprio e funzionava bene, oggi molte volte, molto spesso passa con la macchinetta, arriva a casa e non funziona bene, te la deve riportare per ritoccarla, vabbè, comunque a parte questo discorso, no, ma io me la prendo soprattutto con le istituzioni, insomma. Polacco, che hanno permesso troppe licenze, hanno permesso per i grandi distribuzioni, per cui hanno tutto loro e così hanno rovinato il piccolino e di conseguenza anche i mestieri, perché io non posso farti una porta per 89 euro come ci sono da comprare, tu mi dai cosa sono tue porte, tutto quello che vuoi, io Marco, tanto prenditene una, tu sei non... e te lo giuro, questa non è una palla. Un giorno è venuto uno da me, al bottega, dice, devo fare una riparazione ad una porta, l'hai comprata da comprare, scommetto, sì, e cosa è successo? Lui magari aveva voluto fare una battuta, stava aspettando, io mi sono alzato durante la notte e ho eccitato, mi sono battuta la porta e l'ho bucata. E dice, oh, questo per guardate, l'idea del concetto della gente lo sa benissimo che compra Mondezza, però la compra perché cosa poco, guarda. Sì, comunque ho trovato l'articolo, era gli ultimi maestri d'ascia di Anzio. C'è scritto, è un video più che altro, per decenni oltre 100 barche di legno l'anno, poi nel 2017 una sola barca di legno, e anche lì tutto finito, ormai cosa ricomprare, barche in vetroresina, tutte pronte, caspita, mi chiedo più se davvero ne trovi più barche in legno, come una volta. Intanto costano un patrimonio e dunque non sono molte le persone che sono in grado di farsi costruire una barca. Primo, soprattutto per il semplice motivo che costano un'esagerazione, certo, è vero. Ma io sulle barche ho lavorato per almeno quasi 40 anni, senza quasi 40 anni sicuri, con l'officina Moduccio, lui vicino al quadrato di Piazza dei Segni, per dire no. E io dalle barche, tutto quello che tu vedi sulle barche, sia quelle in legno che quelle in vetroresina, ho fatto tutto quello che è legno, tutto limitatamente nel corso degli anni. Anche l'invaso ho fatto, l'invaso è l'intaragliatura dove si mette la barca sopra per poi metterla sul carrello per il trasporto. Anche il carrello ho fatto, lui mi ha fornito gli accessori, il braccio, l'aggancio, le ruote, tutte queste cose qua, e gli ho fatto anche il carrello. Per dirti, nel corso degli anni, cos'è che non ho fatto io sulle barche? Non solo sulle barche, ma anche sulle ruote. Ho fatto tutto l'arredamento interno, ho riparazioni quando erano incidentate che magari si sente salari, pareti intere di ruoto, queste cose le ho fatte nel corso di tutti questi anni di attività. Per dirti, no Marco. Oggi naturalmente c'erano quelle che ricostruivano le barche, tipo quell'uomo che c'è ancora oggi a Porto Torres, dove c'è la capitaneria del porto, che c'è una falegnameria, non è una falegnameria, è un officino dove fanno queste barche, per dirti no. Funzionano bene, però costa un patrimonio, costa, nessuno riesce più a farle. Anche barche piccole, mi classica proprio barca per uscire a barchetta, per uscire a pescare a canna, mi proprio barchetta a remi, anche allo scoglio lungo ormai le vedi in vetroresina, purtroppo anche per i costi, hai ragione, i costi. Ma ti stavo chiamando da giù o da su, non mi ricordo. No, era il telefono che ha squillato, che squilla su tutti i piani. Non so se è mia moglie che mi ha chiamato per scendere per la cena, ma sicuramente lì, probabilmente lì. E mi fa lo squillo così, e a quest'ora, quando è quest'ora vuol dire che so che devo scendere per la cena. Capito Marco, per cui oggi c'è la vetroresina che ha invaso il mondo, la plastica oggi, e non solo quello, basta vedere cosa c'è in mare, con tutta la bucaria che c'è, bottiglie, buste, palle varie, che non riescono a smaltire più. Dopo, dai, vi saluto, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo domani se qui ci dai. Ciao Marco, ciao Natalino, e ciao Gianni se sei ancora ascolto, e ciao Luca. Riprendi pure Marco, ascolto fino a poi chiudo, vai. Poi un giorno ti chiedo, tu il mestiere come l'hai imparato? Hai fatto l'apprendista da ragazzo? O eri autodidatta? No, no, mi ha portato mio padre con sé, perché mio padre anche lui faceva il falegname, era capomastro in una capoperaio in una falegnameria, mi ha portato con sé, dopo che io avevo imparato un altro mestiere, cioè l'elettricista e l'artista. Avevo fatto la città dove lavoravo io, e allora mio padre, per non lasciarmi per strada, come fanno i genitori di oggi, che lasciano i figli così sbandati, per poi andare a vedere i quinti, ma questo è un altro discorso. Cioè, mio padre, io vieni come quando stai a trovare lavoro. Sono andato lì e mi ha subito dato un banco, mi ha dato alcuni attrezzi e mi ha detto, guarda, in quella gomma ci sono tante ventagli di legno, da lì puoi prendere tutto quello che vuoi tu. Fai fatici che ti pare di piace, non le prendi, vieni qua, almeno per passare il tempo. Però lo scopo già lo sapevamo qual era. Lo scopo suo principale, che poi l'ho capito bene, era quello di imparare io a usare il ferri di falegname. Poi guardando, se tu sai usare il ferri, ti applichi la sola e fai la buca. Ecco qual era tutta la tua fila via. Io mestiere, ne ho tre, non uno. Elettricista, antennista, falegname. E poi naturalmente anche lui tiratore, perché poi alla fine il falegname faceva anche lui tiratore, perché non esistono più due tiratori mobili. Ah, ecco. Purtroppo quindi adesso sparendo c'è gli apprendisti, da chi apprendono se non ci sono più anche, sai, falegnami, possono essere anche altri mestieri, no? Calzolaio, non si apprende più da nessuna parte e ci sono le scarpe usa e getta, che purtroppo è così, le scarpe sono usa e getta, nemmeno più il tacco ormai quasi trovi da gente che ti mette il tacco. E vabbè, purtroppo io già rido quando finirà il petrolio, rido perché non ci sarà più plastica per fare le barche e tutte le cose che fanno. Si tornerà indietro, ricominceranno a fare tutto di legno, anche le radio che avevano i mobiletti di legno. Bene, va bene, buona serata, buona sera, buon tutto. Riprendi, caro Natalino. Ok, Marco, dai, ciao, ti saluto, se parliamo una prossima volta, più a lungo, così ti racconto tutta la mia trafila. Sei lavoratore, diciamo, dai. Alla prossima, ciao, grazie ancora per la chiacchierata, saluti in casa, ciao Natalino, se ti ha raccolto, saluto a tutti, chiudo, ciao, buon estate. Ciao a tutti, dai, sto chiudendo anche io. Era lontano, non potevo rispondere. Ciao Marco, ciao Giulio, chi altro ci fosse in ascolto. Correci per me. Io, ciao Natalia, anche a te, sicuramente sarai cenando. Dai, sentiamo le prossime. Ok? Ciao ciao a tutti, anche gli ascoltoni. Ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao a te.